Avrete saputo certamente del mio arresto dai giornali. Addirittura uno di questi, mi ha detto mio fratello al colloquio, mi ha definito uno dei capi storici di Via dei Voci. Rifiuto questa nomina, perché mi batto per un mondo in cui non ci siano né capi storici, né capi zona, né capi di partito o di sindacato. E perché sono semplicemente un comunista qualunque che, stanco di militare in uno dei tanti partiti, diversi di nome, ma tutti uguali nell'avere capi e nel difendere uno Stato che si regge sullo sfruttamento e sui blindai della polizia, ha preferito essere un compagno tra tanti che sperano e lottano per un mondo migliore. Unica speranza e un unico comportamento per cui ritengo la mia vita degna di essere vissuta. Non mi va di parlare del mio arresto, se ne parlerà al processo. Dico solo che credo che chiunque altro fosse stato fermato al mio posto, a chilometri di distanza dagli incidenti e con una 128 verde, quando la macchina ricercata era una 128 grigia, sarebbe stato subito rilasciato. Ma non mi va di parlare di questo. Vorrei invece parlare della ultima assemblea che abbiamo avuto sul posto di lavoro. In quella occasione il mio intervento fu, lo riconosco, un intervento provocatorio, ma credo che io sia in effetti un provocatore, in quanto mi piace provocare la gente, provocare discussioni, a volte anche provocare litigi, lo sapete già. Ho attaccato sul mio armadietto l'adesivo con scritto marijuana grazie sì, oltre che perché ogni tanto mi piace fumarla, anche per provocare discussioni. Faccio molte assenze, oltre che per starmene a casa a riposare, anche per discutere se sia giusto o no. Insomma, sono, e mi piace esserlo, un provocatore. Non solo, ma ritengo che un'idea politica debba essere totale, vale a dire abbracciare anche cose come la marijuana e le assenze. Detto questo, ritorno all'ultima assemblea, dove provocatoriamente me ne sono andato prima che finisse. Ebbene, in quell'assemblea abbiamo permesso, dico abbiamo perché anch'io non sono riuscito a impedirlo, che una squadretta tutta in impermeabile bianco, di sindacalisti, venisse a far passare una nostra vittoria, quella che in realtà è una nostra grossa sconfitta. Abbiamo permesso in cambio di una manciata di lenticchie che passasse una meccanizzazione che per noi comporterà 9 giorni in meno di vacanza all'anno, aumento del carico di lavoro e quello che è più grave, abbiamo permesso l'introduzione dei turni e la diminuzione effettiva del personale. Non crediate che questi siano miei sogni o allucinazioni, sono ben sveglio e lucido anche al 7° giorno di isolamento. Spesso con alcuni di voi ho parlato dell'Italia in America. Come sono stati sconfitti? Forse in guerra? Forse combattendo? No. Così avrebbero perso la guerra, ma avrebbero conservato, in parte ci sono riusciti, la loro essenza di popolo diverso. Sono stati sconfitti a forza di trattati falsi e ingannevoli, portati avanti dai loro falsi amici. E qui il discorso torna sui sindacati. Fosse venuta la controparte a propagandarci questa nuova organizzazione del lavoro, saremmo stati più attenti, avremmo avuto più possibilità di capire che era una fregatura. Qualcuno di voi quando parlavamo mi diceva: hai ragione, ma che vuoi? Come facciamo? Ti votiamo sindacalista? Niente di tutto ciò. Io credo nell'organizzazione autonoma e dal basso dei lavoratori, zona per zona, servizio per servizio, fabbrica per fabbrica, e credo che solamente con il collegamento fra tutte queste strutture si possa costruire un'organizzazione dei lavoratori che difende i loro interessi e che conquisti per essi stessi e per le prossime generazioni un mondo più giusto e più umano. Con la speranza di essere tra brevissimo fuori con voi, vi saluto fraternamente l'operaio Blasi Marcello.